Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Credo sia una giornata di cui si parlerà a lungo per quello che abbiamo visto, ma soprattutto per quello che stiamo vedendo. Quindi segnatevi subito il numero di telefono, il numero verde 800 24 00 24, da qui fino alle 19, oppure quello degli sms 349 238 6666. Si parlerà a lungo, molto a lungo, di Bologna-Milan e dell'arbitraggio di Rocchi. Siamo sul 2-2. Bologna in vantaggio con Di Vaio all'11, pallonetto in contropiede, Seedorf al 16, gol magnifico, 44, mani di Seedorf in area, Rocchi non so perché, non so come, non vede questa infrazione vistosa. Secondo minuto, palo a giro con destro a giro di Di Vaio. Al 25, rigore per il Milan, dubbio secondo me, anche in questo caso raggi su Ibrahimovic, con la palla che stava andando, peraltro, che era indirizzata da Ibrahimovic verso Pato in fuorigioco. Rocchi questa volta lo fischia, Ibra trasforma, 3 minuti dopo pareggia Diamanti. Atalanta-Catania sono sull'1-1, Cagliari-Parma sullo 0-0, Udinese-Chievo 1-0, gol di Natale al 23 del secondo tempo, ma anche in questo caso l'arbitraggio di Valeri che lascia parecchio a desiderare, come ci racconterà anche Giovanni Capuano, che oggi ci darà il polso di questo finale delle partite pomeridiane. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Cosa hai visto d'altro? Intanto ti do gli altri risultati, che sono Atalanta-Catania, che sono sull'1-1, Atalanta che ha appena pareggiato con Tiribò, che era andata sotto il 18 del primo tempo per un colpo di testa di Legrottaglie, Catania che poi è rimasto in 10 nel finale del primo tempo, e adesso l'assalto dell'Atalanta ha prodotto il gol del pareggio di Tiribocchi, tra l'altro anche molto bello, di prima intenzione. E poi c'è lo 0-0 tra Cagliari e Parma, una partita spaccata in due dall'infortunio di Giovinco. Primi 20 minuti dominati dal Parma, poi Giovinco si è fatto male, un problemino muscolare, è dovuto uscire. Da lì in poi si è visto anche il Cagliari, niente di eccezionale, però direi complessivamente la partita più brutta di questa domenica pomeriggio. Esce Pato intanto, un Pato impalpabile, e c'è invece il raddoppio dell'Udinese. 34esimo di questo secondo tempo, 2-0 dell'Udinese sul Chievo, l'ha realizzato Basta, che poi è rimasto anche dolorante a terra, adesso stanno entrando i sanitari in campo. Comunque 2-0 per l'Udinese, ha un brutto taglio sullo zigomo sinistro Basta. Udinese che a questo punto sarà l'unica squadra a rimanere a punteggio pieno nelle gare casalinghe, sarà la 7ª vittoria su 7 partite, ma una vittoria su cui pesa un non fischio di Valeri. Quale? Ma eravamo nel primo tempo, sul finale, un contatto all'interno della rigore tra Benatia e Pellissier. Pellissier è andato giù, toccato sulla caviglia da Benatia, era calcio di rigore tutta la vita, invece Valeri ha invertito la decisione e ha anche ammonito l'attaccante del Chievo per una simulazione che francamente non c'era. Valeri, così come Rocchi, che sta arbitrando Bologna-Milan, è uno dei due arbitri peggiori di questo inizio di stagione. Su 6-7-7 partite che ha fatto, ne ha già falsate 4, perché era l'arbitro ad esempio di Napoli-Fiorentina 0-0 con due rigori negati al Napoli, era l'arbitro di Cagliari-Bologna 1-1 in cui fu bocciato con un impietoso 4, ne combinò di tutti i colori, era l'arbitro di Atalanta-Inter con rigore dubbio e comunque contestatissimo all'ultimo minuto per l'Atalanta, poi bontà sua sbagliato dei bergamaschi. Considera che questa è la 7ª direzione di quest'anno in Serie A, è uno degli arbitri più usati da Braschi, è un internazionale al pari di Rocchi, che è un arbitro stimatissimo da Collina, che per intenderci l'ha spedito a fare Chelsea-Valencia, quindi la partita, una delle due o tre partite più importanti dell'ultimo turno di Champions League. Rocchi è l'arbitro di Inter-Napoli 0-3, oggi davvero non ne ha azzeccata una, aiutato anche in peggio dai suoi collaboratori. Anche perché, Giovanni, chiariamo, insomma, il rigore fischiato, non fischiato al Bologna, mi sembrava solare, con quel fallo di mano di Seedorf che insomma è stato molto evidente. Un'altra, adesso ci sono i giocatori del Milan infuriati per un fallo di mano di un difensore del Bologna in mezzo all'area di rigore, un tocco ravvicinato di Ibrahimovic, una parata, letteralmente una parata di un difensore del Bologna. È vero che in questo caso i due erano molto vicini, ma credo Morleo salta davvero con le braccia staccate dal corpo. Tra l'altro io ti segnalo nella tua cronaca che ci siamo anche dimenticati un altro calcio di rigore su cui Rocchi si è dimenticato il fischietto a favore del Milan nel primo tempo, una spinta clamorosa di Mudingai su Aquilani sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Aquilani che si era smarcato, era pronto a colpire di testa a due metri dalla porta del Bologna, messo giù, calcio di rigore a mio parere abbastanza netto, non a livelli di dei due falli di mano che abbiamo visto dopo, però insomma Rocchi davvero disastroso. Io sta scontentando tutti, quantomeno è un arbitraggio democratico nella sua mediocrità, Giovanni, mi pare, perché adesso meglio questo di quello visto in Napoli-Inter, però la domanda di fondo è Braschi ha scelto di ridurre il numero degli arbitri che giravano sulle partite di Serie A, e questo rende impossibile delle preclusioni, rende impossibile probabilmente anche a stagione in corso pensionare dei direttori di gara. La cosa che ci si chiede ad esempio è perché Valeri e Rocchi, che sono due arbitri e abbiamo letto insieme lo score, continuano a fare gare di altissimo livello, perché oggi stanno arbitrando la seconda e la terza in classifica, insomma. Sì, certamente, certamente. No, dicevo del mani in area di Seedorf al 44esimo, ma mi pare che anche il rigore concesso al Milan sia stato... C'è un gol del Chievo? Sì, c'è intanto il gol del Chievo, l'ha segnato Bolzoni, un bel destro sotto l'area di rigore, si tratta di Paloschi, un bel destro, limite dell'area di rigore, pallone che ha scavalcato Andanovic e si è infilato nel 7, quindi... 2-1 è una notizia, perché è il settimo gol che ha subito l'Udinese dall'inizio del campionato, sì, soprattutto sì. In casa è il secondo. Sì. Comunque Chievo che riapre la partita, una partita che l'Udinese ha molto sofferto nel primo tempo, poi nel secondo in realtà anche prima dei due gol erano arrivate a grappoli alcune occasioni per Totò Di Natale, il Chievo si era salvato anche con fortuna, però adesso la partita è riaperta, da vedere gli ultimi 7 minuti. Certamente, mi pare tra l'altro che anche qui per la cronaca Basta sia rimasto in campo, aveva segnato il gol del 2-0 pochi istanti fa, come aveva raccontato al 34esimo, colpo di testa con annessa scarpata di Dramé sul volto, il taglio di cui ci raccontava Giovanni Capuano sullo zigomo sinistro, sanguinante, però è stato evidentemente medicato, mi pare che il giocatore dell'Udinese sia ancora in campo in questo momento. Dunque, rapido riepilogo 1-1, mentre sono tutti parziali, una decina di minuti alla conclusione delle partite più recupero, 1-1 tra Atalanta e Catania, con l'Atalanta in rimonta sui siciliani, tra l'altro Catania che gioca in 10 dal 44esimo del primo tempo per l'espulsione di Spolli, doppia ammonizione per lui, è 2-2 tra Bologna e Milan, 0-0 tra Cagliari e Parma, l'unica partita che non sta dicendo nulla nelle 4 di questo pomeriggio, e il 2-1 di Udinese-Chievo. Ieri ne abbiamo viste altre 4, di cui tra poco cominceremo anche a parlare, con l'Inter che ha rialzato la testa complice una difesa della Fiorentina da coprirsi gli occhi, da bollino rosso per gli errori commessi, con Pazzini che torna al gol, con Ranieri che tira un sospiro di sollievo, con l'Inter che prova a rialzarsi per l'appunto, ma una Fiorentina che ha patito moltissimo l'assenza di Montolivo, che ieri sera è stata tutt'altro che convincente. Nel segno di Klose, la vittoria della Lazio a Lecce con la doppietta del fuoriclasse tedesco sulla Lecce per la prima volta guidato da Serse Cosmi. E poi altra notizia della giornata, indubbiamente il successo del Cesena a Palermo che fin qui aveva il percorso netto nelle gare casalinghe, ma Adrian Mutu ieri sera non era così d'accordo, magnifico il suo gol di test tra l'altro. E c'è il 2-0 del Genoa su Siena, quindi giornata per squadre corsare, giornata per arbitri disastrosi questa, e io saluto e ringrazio, oltre a Giovanni Capuano che rimane collegato con noi naturalmente, pronto ad intervenire per ogni episodio di cronaca, Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Andrea, raccontami che l'Italia dovrà essere rappresentata all'europeo probabilmente da Rocchi, c'è da rabbrividire. Sì, abbastanza. No, dicevo comunque arbitraggio, se vogliamo, democratico nella sua mediocrità, sta dando fastidio a tutti Rocchi oggi. Purtroppo sì, ma come già in Inter-Napoli di quest'anno, insomma, per la quale era stato sospeso, se ricorderete, quindi insomma una serie di... una natraccia per lui, diciamo così, una natraccia. L'anno degli europei non lo accompagnerà nel modo migliore. Andrea, raccontami invece dell'Inter di ieri sera, che impressione ti ha fatto? L'Inter quest'anno dobbiamo abituarci, almeno per le prossime settimane, poi magari col nuovo anno le cose cambieranno, ma è una squadra che va a strappi, si inabissa, risorge, si inabissa di nuovo. Ieri sera è stata anche in parte favorita da un avversario molto arrendevole, fin troppo, ma la Fiorentina evidentemente senza Montolivo e Jovetic è pochissima cosa. Alla fine, se andiamo a guardare, l'Inter non è che abbia fatto questa grande partita, è stata favorita sui gol da due errori della Fiorentina, però è apparsa comunque vogliosa e umile al punto giusto. Di sicuro, al di là dei gol di Pazzini e Nagatomo, ieri sera tra i migliori ci sono stati Coutinho e Faraoni, a conferma del fatto che insistere un po' su queste forze giovani non deve essere un errore all'Inter, perché anche nelle ultime partite, ricorderete Castagnossa a Siena, lo sprazzo di Alvarez in Champions League, insomma l'Inter è stata portata avanti un po' da questi giovanotti che hanno sempre troppo poco spazio, e secondo me insistere su questi qui... Ma sai, quantomeno perso, ormai l'Inter non ha più nulla da dire nella corsa a scudetto. È chiaro che rimanere fuori dalla Champions League sarebbe un danno capitale per un club che deve rifondarsi, però tanto vale rischiare e vedere se tra questi c'è qualcosa di buono per con il quale costruire il futuro, no Andrea? Perché no? È una cosa che secondo me proprio bisognerebbe fare culturalmente, ecco, dare spazio ai giovani e limitare l'apporto di quelli un po' più anziani. Comunque, per quanto riguarda il discorso Champions League, se guardate la classifica, improvvisamente questa vittoria sulla Fiorentina, 3 punti in più, sono 17, c'è un recupero martedì contro il Genoa, l'Inter potrebbe trovarsi alla vigilia di Natale improvvisamente a 8 punti, diciamo. A ridosso, non voglio parlare del primo posto, ma insomma a ridosso della zona Champions, il che dopo un autunno simile non sarebbe affatto male, a riprova che questo è un campionato molto lento, che c'è possibilità di rientrare se uno infila dei risultati positivi. Di sicuro l'Inter deve riavere Maicon, perché quello di ieri sera è ancora un Maicon convalescente, e soprattutto Sneijder, che è il grande buco nero di questa stagione, ha giocato soltanto 6 partite e neanche a grandissimi livelli, e continua a rimanere ai margini per questi continui infortuni che lo affliggono. Sì, anche perché mi pare l'unico giocatore impossibile da sostituire sia tecnicamente che tatticamente nell'Inter. Sì, perché devi cambiare gioco senza di lui, non hai più il genietto nella tre quarti e quindi devi provare l'aggiramento che è difficile, o lo sfondamento centrale che è ancora più difficile. Il problema di Sneijder è che molto probabilmente, dati i continui avvistamenti notturni in giro per Milano, purtroppo non si sta amministrando al meglio, è come se lui in qualche modo avesse in parte già mollato e desiderasse altro, ma questo si era capito già dalla scorsa estate. Scorsa estate è stata difficile, non potevano lasciare qualche strascico su un giocatore che è rimasto con la valigia in mano per molto tempo, poi alla fine non se ne è fatto nulla, però è chiaro che non sono le condizioni migliori per la conferma di quello che è di fatto il tuo miglior giocatore, la tua superstar. Andrea, ti chiedo di rimanere in linea un attimo, andrei da Giovanni Capuano per farci dire se c'è qualcos'altro sul fronte della cronaca, prima di fermarci un attimo per il traffico. Non ci sono gol, c'è da segnalare che il Chievo è andato vicinissimo al gol del 2-2 con Moscardelli, in realtà anche l'Udinese ha sfiorato a ripetizione il 3-1, e ci sono state un paio di incursioni pericolosissime del Milan nell'area di rigore del Bologna, gara che si sta chiudendo con il Milan tutto avanti, nel Bologna è uscito Diamanti, sono tutti chiusi adesso al limite della propria area di rigore, sta soffrendo il Bologna dopo aver fatto una gran partita. Spero poi di poter avere un confronto verbale anche con gli ascoltatori 800 24 00 24, perché con gli sms ci divertiamo di meno, anche se qualcuno scrive: se gli errori sono contro Inter e Milan lei si scandalizza, se sono contro le piccole squadre sta zitto e allineato, siete tanto banali quanto faziosi. Non mi pare di aver detto questo, insomma, mi pare che gli errori contro le piccole squadre, se vogliamo considerare il Bologna una piccola squadra, sia stato sottolineato ampiamente. Ci sono stati errori anche contro il Milan oggi, e questo mi sembra un dato di cronaca, quindi tutti scontenti dell'arbitraggio di Rocchi. Prima di salutare Andrea Sorrentino volevo girargli un sms, che è questo: non dite che Pazzini sia sbloccato, era stata detta la stessa cosa a suo tempo per Milito. Ieri Pazzini è tornato al gol, non ha esultato, secondo me non tanto per i suoi ricordi fiorentini, quanto perché insomma frustrato forse dai fischi, frustrato dalla lunga astinenza dal gol, frustrato da molte altre cose. è tornato al gol con una discreta cappella in combinata tra Natali e Boruz, che hanno combinato un pasticcio non grande quanto quello del secondo gol di Nagatomo, ma diciamo di una Fiorentina che ha una difesa tutt'altro che convincente. Non solo ieri sera, ma nel corso di tutta la stagione è stata poco convincente questa difesa. Ma parliamo di Pazzini, Andrea Sorrentino. Pazzini fatica moltissimo quest'anno perché l'Inter è una squadra che non ha una manovra d'attacco efficace, e lui, che non è un centravanti proprio di manovra, ma è uno da area di rigore che aspetta più che altro il pallone, ne ha avuti pochissimi quest'anno, davvero, e negli ultimi tempi si era anche parecchio immalinconito. Ieri sera ritrovava San Siro dopo il rigore sbagliato contro l'Udinese, nel modo che ricorderete, era molto nervoso. Prima del gol, dopo un paio di agganci sbagliati, gli è arrivato qualche borbottio dallo stadio, e quindi lui dopo il gol si è un po' risentito, anche se oggi ha smentito di essersela presa con il pubblico, insomma sono smentite un po' di facciata, lui era infuriato col pubblico e l'ha mandato a quel paese, ma sono cose che capitano, secondo me non sono neanche così gravi. Andrea, posso interromperti un istante, perché certo, così andiamo un attimo a Udine, cioè da Giovanni Capuano, che ci racconta di qualcosa che è successo a Udine? A Udine è successo che è finita la partita, quindi l'Udinese ha vinto, ha battuto il Chievo per 2-1. Udinese che, meno di novità da Bologna, chiude questa giornata in attesa del posticipo tra Roma e Juventus in testa alla classifica. Settima vittoria consecutiva su 7 in casa, ha fatto 21 punti in casa e 9 fuori, ne ha fatti 30 in tutto, però a questo punto, facendo il conto anche della piazza Champions in chiave Inter, credo che l'Udinese sia assolutamente da tenere in considerazione. Pazzesca Udinese, ma insomma non lo scopriamo certo questo pomeriggio. Torniamo a Pazzini, Andrea. Sì, no, era per chiudere. In realtà Pazzini quest'anno ha segnato pochissimo, soltanto 4 gol, 2 in Champions e 2 in campionato, però tutte le volte che lui segna l'Inter vince, il che vuol dire, magari rovesciando il problema, visto che anche Milito ha segnato pochissimo, che quest'anno l'Inter ha davvero un bisogno vitale dei gol dei suoi attaccanti, senza i quali non riesce a vincere le partite, e questo è tutto un problema che ci porta dietro altri problemi. Di sicuro l'Inter quest'anno non gira perché non ha energia e non ha velocità nella manovra offensiva, e questo è il suo più grande problema, che forse con il golletto di Pazzini ieri sera può cominciare a risolvere, almeno sul piano psicologico. Naturalmente più tardi parleremo anche del classico spagnolo che abbiamo visto ieri sera, che ha, insomma, userei una parola sola, frustrazione per Mourinho e per il Real Madrid, ma chiedo ad Andrea Sorrentino, prima di tornare in cronaca con Giovanni Capuano per la fine delle partite, un pensiero su quello che ci aspetta domani sera, cioè su Roma-Juventus. Come te l'immagini, Andrea? Io temo che per il buon Luis Enrique possa cominciare a essere almeno una penultima spiaggia, se non addirittura l'ultima. Lui oggi già ha parlato. Beh, oggi l'ha detto, ecco. Dimissioni mai dire mai. Ecco, io credo che per tutto il movimento calcistico italiano sarebbe un errore rinunciare a un allenatore, a un'idea di questo genere, come quella che cerca di portare avanti Luis Enrique, perché secondo me in una piazza come Roma, che fino a pochi mesi fa invocava la cacciata di tutti i mercenari e l'arrivo di giovani e di idee nuove, adesso contestare la squadra perché magari ha 4-5 punti in meno di quelli che potrebbe avere, secondo me è sbagliato. Luis Enrique è un allenatore giovane, alla sua prima vera esperienza, quindi commette degli errori anche lui, come quel continuo cambiare formazioni, però secondo me ha un'idea di gioco e di calcio che può aiutare il movimento calcistico italiano a crescere un po', e per questo bisognerebbe dargli più fiducia. Di là c'è una Juve che è la squadra più forte del campionato fino a questo momento, è un blocco di granito, è tornata a esserlo come ai vecchi tempi, e secondo me anche l'essersi scrollata di dosso questo Moloch del Piero, che è lì, che aleggia da tanti anni, non deve averle giovato. Poi ovviamente è doloroso rinunciare a un campione di questo genere che ha fatto la storia della Juve, però a 38 anni sì, è anche normale che un allenatore faccia certe scelte. E che si provi a guardare al futuro, hai ragione. Grazie, esatto. Andrea, grazie, buon lavoro. Grazie ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Torno a Giovanni Capuano, che ci sono ancora due partite in corso, perché Rocchi ha concesso 5 minuti di recupero, che peraltro stanno scadendo per Bologna-Milan. C'è Mario da Bologna che è infuriato anche con noi, ci vorrebbe rottamati, perché è quello di prima, credo, che diceva che gli errori contro le piccole squadre non vengono sottolineati. Vabbè, facciamo il possibile. Giovanni, cosa sta succedendo in questi minuti finali? Sono gli ultimi istanti, gli ultimi secondi di Bologna-Milan, Bologna che ha provato con un paio di contropiedi a rendersi pericolosissima, con Di Vaio nella prima occasione c'è stato un rimpallo casuale su Bonera, partita che è finita in questo momento, quindi è finita 2-2 a Bologna tra Bologna e Milan, si sta ancora giocando invece a Bergamo dove c'è l'assalto finale dell'Atalanta, mancano una manciata di secondi, siamo sull'1-1 tra Atalanta e Catania. Io volevo lasciarti con uno spunto di riflessione. Certo. Con i due gol presi oggi il Milan sale a 16, nelle prime 8 della classifica non c'è nessuno che abbia fatto peggio del Milan, in tutto sono 12 le squadre che hanno una difesa migliore o uguale a quella del Milan. Ho l'impressione che invece di ragionare su Tevez e su come rinforzare un attacco che è a quota 31 ed è largamente il migliore della Serie A, probabilmente il Milan dovrebbe pensare a come correre ai ripari dietro, perché quando non c'è Nesta insieme a Thiago Silva, certo, e si alternano come oggi Yepes o poi Bonera, Mexes ancora non si è visto, insomma la squadra dietro soffre, perché al di là degli episodi la verità è che oggi il Milan ha fatto una brutta partita, ha rischiato anche di perderla. Aggiungere il centrocampo, a rinforzare la difesa, ma anche al centrocampo. Van Bommel è stato ammonito nel primo tempo ed è stato ammonito al terzo fallo, è andato in difficoltà immediatamente. È anche vero, Giovanni, che Thiago Silva, fenomeno assoluto, però è già stato bruciato sullo scatto dal vecchio Di Vaio, su un lancio da dietro, nell'unica chiamata da applausi della terna arbitrale di oggi, però lì bravo il guardaline a non alzare la bandierina su Di Vaio che ha incrociato Thiago Silva partendo in posizione regolare. Sì. Lancio da dietro, è chiaro che insomma lì ci sono diverse colpe della fase difensiva del Milan, se non proprio di Thiago Silva esclusivamente. Non c'è dubbio, oggi è andata in difficoltà tutta la fase difensiva del Milan. Tra l'altro quel assistente è lo stesso del rigore di Ibrahimovic, che forse a stretti termini di regolamento è un rigore che c'è, ma è certamente viziato in partenza da una posizione nettissima di fuorigioco di Pato, che costringe Raggi a un rinvio sbagliato da cui poi nasce la carambola e il fallo su Ibrahimovic. L'unica correzione che volevo fare è che Rocchi, dopo il disastro di Inter-Napoli, di fatto non fu fermato, perché arbitrò Inter-Napoli alla sesta, saltò un turno, fece una gara in Serie B e rientrò alla nona con Chievo-Bologna. Quando io prima dicevo che la scelta di Braschi, che è stata quella di ridurre il numero di arbitri che fanno la Serie A, rende probabilmente impossibile prendere alcune decisioni anche drastiche, mi riferivo proprio a questa. Io non so se Braschi avrà la possibilità di fermare Rocchi dopo il disastro di Bologna, dopo il disastro di Inter-Napoli non lo fece, ma a prescindere dalla preclusione e dalle parole di Moratti, perché la verità è che Rocchi è tornato immediatamente ad arbitrare. Certo. Grazie Giovanni, grazie a te. Buon lavoro, grazie Giovanni Capuano. Dunque io vi riepilogo ciò che è successo oggi pomeriggio e vi do anche la classifica, così poi cominciamo a parlare con calma con voi. 800 24 00 24 è il numero verde. Dunque, ieri, come detto, Inter batte Fiorentina 2-0, la Lazio vince 3-2 a Lecce, il Cesena 1-0 a Palermo, il Genoa 2-0 a Siena, poi oggi pomeriggio 1-1 tra Atalanta e Catania con il gol di Legrottaglia al 18esimo. L'espulsione di Spolli, quindi Catania in 10 dal 44esimo del primo tempo, e il pareggio a Tarantino che arriva con una girata di tiribocchi al 26esimo della ripresa. 2-2 in questo chiacchieratissimo Bologna-Milan, Di Vaio all'11esimo, Seedorf al 16esimo, quindi il rigore di Ibrahimovic al 25esimo della ripresa, il gol di Diamanti al 28esimo, sempre ovviamente della seconda frazione, 0-0 tra Cagliari e Parma. In una partita con pochi episodi e pochi spunti da segnalare, se non l'infortunio muscolare a Giovinco, che ha messo in difficoltà ovviamente il Parma, privo della sua stellina. Il 2-1 dell'Udinese sul Chievo con i gol di Natale e Basta, 23esimo e 34esimo della ripresa per i friulani, e Paloschi che ha segnato il gol della bandiera per il Chievo al 38esimo. La classifica ve la do invece dopo il giornale radio. Avremo due ore per parlare insieme di tutti gli episodi e di tutti i momenti salienti di questa 15ª giornata che si chiuderà domani sera con Roma-Juventus e che ha visto anche il superclassico di Madrid. A dopo. Attenzione. tempo di sport. Allegri, allenatore del Milan, non vuole parlare degli episodi, ma sta parlando d'altro. Allora lo sentiamo con Sky. Cavoloso, è la prima. L'arbitro ha detto, mi sembra di capire. Vediamo se adesso, insistendo, parla di questi episodi che sono molto evidenti. Zedorf, che ha toccato prima la spalla e poi il braccio. Non è vero. Se così braccio fosse, basta. Non sarebbe rigore, ma lei cosa ne dice? Rivedendo. Rivedendo sembra mano. Però credo che poi dopo alla fine ci sia stata una mano anche a favore nostra che non ha fischiato, ecco, quindi adesso le questo credo che non sia rigore, però indipendentemente di queste decisioni arbitrali, purtroppo abbia lasciato due punti in campo. Una partita sicuramente che non era semplice, anche perché siamo andati in svantaggio al decimo su un contropiede, su una palla lunga. Lì chi ha sbagliato o è stato bravo Di Vaio? Di Vaio è stato molto bravo, soprattutto nel primo tempo, a muoversi tra i due centrali, e noi siamo stati meno bravi nell'andare ad anticipare queste situazioni, anche perché loro erano molto bravi, perché ogni volta che conquistavano palla dopo ripartivano subito immediatamente con Di Vaio e due trequartisti, ecco, quindi non era neanche semplice. Ilaria, penso così che... così allegri, stavo rivedendo la miriade di episodi di cui è punteggiata questa partita. È solare il rigore di Seedorf, possiamo rivederlo tutte le volte che vogliamo, ma valeva già velocità normale, fallo di mano evidente. Stavo rivedendo una spinta di Yepes su Ramirez che pure poteva essere rigore, stavo rivedendo il rigore concesso al Milan che secondo me non lo era, e comunque c'era una posizione di fuori gioco di Pato cui era stato nettissima, era stato indirizzato il pallone di Ibrahimovic poi rimpallato. Stavo rivedendo il fallo di mano su cui il Milan ha anche giustamente protestato, eccetera, eccetera, eccetera. Stavo rivedendo tutte queste cose mentre ascoltavo Massimiliano Allegri, che comunque ha detto l'errore capitale è stato quello di non difendere il vantaggio a 2-1, durato soltanto 3 minuti. 800-24-0024, la parola a voi, la palla a voi. Aurelio da Bari, Luca da Torino sono i primi due ascoltatori di oggi e mi auguro che siano in molti a farmi compagnia. Aurelio, buonasera. Salve. Salve. Senta, volevo chiederle, secondo lei Mourinho non ha peccato troppo di orgoglio perché non si è ricordato della lezione italiana, cioè... E quando ha giocato con l'Inter ha ingabbiato il Barcellona per poi colpirlo, mentre pensava che il Barcellona... Pensava di essere cresciuto abbastanza per poter sfidare il Barcellona sul piano strettamente calcistico, lei dice? Probabilmente. Sì, possiamo leggerla anche così, Aurelio, possiamo leggerla anche così. Il Real Madrid aveva vinto 15 partite consecutive, era in un momento strepitoso, stava giocando il miglior calcio del pianeta, ha provato a giocare col Barcellona a viso aperto, è andato in vantaggio dopo un pugno di secondi e insomma... Invece contro questo Barcellona non c'è nulla da fare, bisogna sporcarsi le mani e giocare in un'altra maniera, evidentemente è così. Io continuo a pensare che la partita perfetta il Real l'abbia giocata in ben altre condizioni la notte della finale di Coppa del Re, quando non a caso riuscì ad alzare il trofeo. Anche ieri sera evidentemente il Barcellona è troppo forte per chiunque, anche un Barcellona che qualche segno di, non ieri sera naturalmente, ma nel corso di questa stagione qualche piccolo segnale di attaccabilità lo ha dato. Ebbene, se giochi contro il Barcellona, chi è più bravo a giocare a pallone, a viso aperto per essere più chiari, non esci neanche se sei Real Madrid. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera, cortesissimo, gentilissimo, Torgenta. Appunto, il Barcellona gioca a calcio, gli altri corrono dietro una palla. Beh, insomma, questo è un po' ingeneroso, perché al mondo è l'unica squadra, secondo lei, a giocare a pallone? Sì, quasi. No, io direi che è quella che gioca meglio, poi ce ne sono anche delle altre, altre, però è evidente che il Barcellona è la squadra che gioca meglio a calcio su questo pianeta. Perché chiunque, forse Puyol, che vabbè, quello è un guerriero, quindi diciamo recupera fisicamente le doti meno tecniche che ha, ma gli altri, cioè destra e sinistra, ce l'hanno tutti, sanno crossare, sanno poggiare. E vedendo il campionato italiano siamo veramente bello perché è equilibrato, ma è proprio sì, però è Luca, però è sbagliato prendere come termine di paragone assoluto il Barcellona. No, secondo me è sbagliato perché è nettamente la migliore squadra del mondo. Se quello è l'unico parametro di riferimento, allora tutto il resto fa schifo, compreso il campionato italiano. Non la leggerei in termini così drastici, Luca. Mi permette? No, forse mi sono espresso male, sicuramente. Non bisogna fare, perché lì è un altro mondo, voglio dire, è sempre stato la mentalità di fare un gol in più. Perché vede, nel campionato italiano, ad esempio, c'è uno ascoltatore che prima mi tirava le orecchie. Tu milanese parla per una volta della grande Lazio, mi sembra un po' eccessivo come tono. Perché chi se ne frega da quale città veniamo, parliamo di calcio con grande piacere di tutto il calcio che vediamo, di tutto il calcio di cui volete parlare. Però la Lazio è una squadra che sta giocando bene a pallone, per non dire dell'Udinese, che è la squadra che sta giocando il miglior calcio d'Italia, certamente nel rapporto qualità-prezzo, ma probabilmente anche in valore assoluto. È evidente che il Napoli, secondo me, gioca un calcio meraviglioso, e anche qui sto dicendo delle banalità perché i risultati europei sono lì a, ma anche come qualità, anche come qualità del gioco sono lì ad insegnarlo. Dunque, secondo me, stiamo vedendo discrete cose anche dalle nostre parti. La Juventus stessa, che non a caso è, stasera seconda, magari domani sera di nuovo prima in classifica, però la stessa Juventus ha giocato alcune grandi partite. Sì, no, ma io sono comunque innamorato dell'Udinese perché è l'unico bianconero che adoro, diciamo, da tipo santerista, perché poi sì, si vede come mentalità, come è messa in la squadra, cioè non ha le dote tecniche del Barcellona, però è un tipo di calcio che si avvicina a livello di squadra al Barcellona, squadra, perché giocano chiunque, voglio dire, meravigliosa, una squadra bellissima anche da vedere giocare, è una squadra in cui si tocca con mano l'organizzazione, in cui tutti sanno cosa fare, dove andare, sanno cosa vogliono ottenere, dunque, e questo si vede in campo chiaramente. Sono pronto a farvi sentire l'allenatore capoclasse, almeno fino a domani sera, cioè Francesco Guidolin, che sta per parlare ai microfoni di Sky. Cosa è successo sul campo alla fine della partita e poi commentiamo insieme. Palermo 20, Napoli 20, Lazio 28, Milan 28, Juventus 29, Udinese 30! Questo è lo speaker dello Stadio Friuli che legge la classifica. Al contrario, bellissimo, certo che trovarli lì all'11 di dicembre è fantastico. Guidolin. Un momento magico che sta durando e noi proviamo a farlo durare il più lungo possibile. Qui siamo talmente oltre al sogno che siamo di nuovo nella realtà, perché adesso è inutile parlare di salvezza, non ci crede più nessuno, perché questa è una squadra di qualità, una squadra che sa lottare, magari soffre come nel primo tempo, ma alla fine vince, la classifica dice siete primi. Indubbiamente noi oggi abbiamo fatto un primo tempo nel quale non andavamo al ritmo nostro. E forse un po' di scorie di qualche complimento di troppo ricevuto a Milano, non lo so, comunque complimenti al Chievo che è comunque un'ottima squadra. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto proprio la partita che avremmo voluto fare, hanno giocato ad altissimi ritmi per tutto il secondo tempo e credo che abbiamo meritato perché abbiamo costruito tanto, anche se il finale è stato ancora pieno d'ansia perché Paloschi ha dimezzato le distanze. Io credo che dobbiamo vivere il nostro presente con grande entusiasmo, con grande serenità, con grande gioia, indubbiamente, perché è bella, la classifica è stupenda, il momento è straordinario. Vediamo fino a quanto durerà. L'ultima cosa per quanto mi riguarda, volevo sapere se adesso si sta rendendo conto del fatto di avere magari qualcosa in più di quello che pensava di avere, perché insomma la squadra si sta dimostrando solida sotto tutti i punti di vista e poi volevo capire se ha già la sciarpa della Roma addosso. Dunque, stiamo, come dire, integrando dei giovani che piano piano, esperienza dopo esperienza, partita dopo partita, spezzone di partita dopo spezzone di partita, acquisiscono maturità e personalità. Mi riferisco ad Ekstrand, che ha fatto molto bene oggi, l'89, mi riferisco ad Abdi, che è qui dall'anno scorso e secondo me ha fatto 20 minuti molto buoni. E noi abbiamo bisogno anche di ricambi, perché oggi ci mancavano diversi giocatori e vorremmo mantenere il cammino anche in Europa League, quindi abbiamo bisogno di un gruppo più numeroso. E come dire, i dati dicono questo fino ad oggi e noi speriamo di continuare così. Domani mi guardo serenamente, anzi no, stavolta non lo dico serenamente, perché sennò guardo, ecco, Chelsea-Manchester City. Guarda, sì. Chelsea-Manchester City, Guidolin gli cresce il naso tanto da bucare la telecamera. Mi guardo Chelsea-Manchester City, questa non è male. Torno agli ascoltatori, 800 24 00 24. Ma lui ha ragione, pienamente meritato anche il successo di oggi. Ecco, all'Udinese forse manca l'ultimo passo, cioè quello di vincere partite in cui magari merita di meno. Stefano da Sanremo, buonasera. Pronto, buonasera. Senta, due velocissime considerazioni. Prego. Riguardo a quel discorso che si faceva prima sulla partita della Madrid e Barcellona di ieri sera. Cioè, nulla da dire al Barcellona, perché cioè, uno che ama il calcio non può dire molto, voglio dire, è una squadra fantastica. Però mi sembra che tutto quanto sia risolto semplicemente al risultato. Mi intendo, ieri sera il Barcellona ha fatto una bellissima partita, il Real Madrid anche. La differenza, soprattutto gli ultimi due gol del Barcellona, perché il primo era bellissimo, sono dovuti anche, diciamo così, volevo metterla diciamo in maniera gentile, a un pizzico di fortuna al rimbalzo giusto. Cioè, vuole dire, se no a quest'ora magari oggi parlavamo di un grandissimo Real Madrid e di un Barcellona ridimensionato. Mi sembra un po' schizofrenico come ragionamento. Lei ha sentito Mourinho al telefono? No, perché quello che ha detto Mourinho ha deciso la fortuna, mi sembra un po'. Ma è vero, ci sono stati episodi anche fortunati che hanno dato una mano al Barcellona. Sì, questo sì, ma ci sta. Barcellona è una squadra che tutte le sue fortune è in grado di meritarsele, questo è evidente. È stata una splendida partita ed è stata insomma l'ennesima, però a mio parere, dimostrazione di come il Barcellona sia impossibile da affrontare a viso aperto. Poi possiamo parlare di fortuna, no? Se vogliamo. Anche se no, mi sembra quasi una bestemmia dire che una squadra che gioca in quel modo a Madrid, sul campo di una squadra reduce da 15 vittorie consecutive, una squadra che si è compattata, che sta esprimendo il suo calcio migliore, una squadra stellare, ebbene dire che il Barcellona è stato fortunato mi fa un po' specie, insomma. Io non so se è già in linea il nostro prossimo ospite. No, lo aspettiamo con pazienza, anche perché sono curioso di sapere qual è la sua opinione. Non le sembra strano, Stefano? Cioè, non le sembra così un po' surreale parlare di fortuna per una squadra che vince 3-1? No, io non volevo dire quello, dire niente nei confronti del Barcellona come squadra. Lo ripeto, secondo me è la squadra che gioca il miglior calcio del mondo, sì. E secondo me ha ragione lei quando dice che il Barcellona affrontato a viso aperto è impossibile da battere. Guardi, esatto. Secondo me io sono convinto di questo, cioè essendo la squadra che gioca il miglior calcio su questo benedetto pianeta, io credo che sia impossibile da battere giocando a pallone a viso aperto. Io mi ricordo ad esempio quest'anno della gara del Milan col Barcellona: devi andare lì e soffrire come un cane, avere grande organizzazione, avere grande corsa, avere anche un po' di fortuna, come ad esempio il Milan ebbe al Camp Nou. Devi andare lì con la faccia sporca di fango e insomma provare a ridurre gli spazi, a chiudere gli spazi, a togliere, a consegnare a loro il pallone e a provare appunto a togliere le munizioni ai grandi attaccanti che hanno. A proposito, ieri sera ho visto Alexis Sanchez finalmente sui livelli per i quali è stato preso al Barcellona. Che fosse un giocatore straordinario l'avevamo capito anche quando era dalle nostre parti, è stato protagonista dell'estate, è costato un mucchio di denaro. Ieri sera abbiamo capito perché quel denaro non è stato sperperato. Sentiamo ancora una battuta di Guidolin. Adesso avremo bisogno del nostro bel campo, del nostro stadio nuovo, del nostro stadio gradevole, accogliente, confortevole. Speriamo che quando ci sarà questo nuovo stadio anche ci possa essere ancora un Udinese protagonista. Anche perché questo Guidolin, io saluto e ringrazio Alberto Cerruti, capo penna più illustre della Gazzetta dello Sport sul calcio. Ciao Alberto. Ciao Carlo, grazie, buonasera. Troppo gentile. Buonasera a te. Serata, buona domenica. Stavamo discutendo un po' di Anna Caprina, cioè del Barcellona che ha avuto fortuna ieri sera a Madrid. A me suona stranissimo parlare di fortuna rispetto a questa squadra, insomma, se ha fortuna sì, è vero, come ha detto Mourinho. Ma fortuna ce l'hanno i tifosi del Barcellona. Bravo, che possono fortuna. Vedere questa grande squadra. Ce l'hanno i tifosi del Barcellona che possono vedere questa grande squadra, hai ragione Alberto. Mourinho è stato presuntuoso ieri sera, o almeno si è dimostrato per l'ennesima volta che se giochi a calcio col Barcellona non la scampi? Beh, io toglierei ieri sera, Mourinho è presuntuoso. E ancora una volta è stato punito dal Barcellona, forse anche peggio dell'anno scorso quando fu sconfitto 5-0, perché questa volta il Madrid è andato in vantaggio, quindi era nelle condizioni psicologiche migliori, e è stato superato da una grande squadra, e quindi io credo che un grande allenatore debba essere tale quando sa vincere e soprattutto quando sa perdere. Da questo punto di vista Mourinho non è ancora un grande allenatore. Alberto, si parlerà a lungo, tu lo sai già, di Rocchi, in parte anche di Valeri, però Bologna-Milan di oggi è stata veramente una caporetto per quello che è uno dei più quotati arbitri italiani, o vogliamo dire il più quotato arbitro italiano, lo so, fai tu. Sì, guarda, è strano perché Rocchi è addirittura candidato per essere il secondo arbitro italiano agli europei insieme con Rizzoli. Per caso io l'ho visto martedì sera a Londra, partita Chelsea-Valencia, è stato bravissimo, non ha sbagliato nulla, e io dicevo ma questo non può essere Rocchi che noi vediamo in Italia. Oggi non è tornato il fratello Scarso. È tornato il vero Rocchi, purtroppo. Ne ha combinati tutti i colori, come era già successo in occasione di Inter-Napoli quest'anno, quando aveva sbagliato soprattutto a danno dell'Inter. È un peccato perché questi errori puniscono soprattutto il Bologna, ma alimentano polemiche di cui nessuno sente il bisogno. Certo. E nascondono anche le difficoltà del Milan, perché gli errori di Rocchi fanno passare in secondo piano i problemi che il Milan ha riscoperto oggi, lanciando un assist favoloso alla Juventus che domani sera. Quali sono i più evidenti, Alberto, secondo te? I più evidenti sono un centrocampo che non filtra più, perché Van Bommel non è quello dell'anno scorso. È un centrocampo sbilanciato, perché Seedorf è un meraviglioso giocatore che fa gol splendidi come quelli di oggi, ma non copre. Aquilani è un mezzo grande giocatore, e quindi il Milan è stato sovrastato dal punto di vista atletico dal Bologna. In più Pato sta facendo di tutto per far acquistare Tevez al suo posto, aggiungiamo che Amelia non è Abbiati, che mancava Nesta, e purtroppo è un quadro di un Milan che è fortissimo in Italia quando ha tutti gli elementi, ma non è una squadra di valore assoluto. L'Udinese continua a correre ovviamente senza la pressione addosso, ma corre velocissima, è una meraviglia da guardare l'Udinese. Beh, un Udinese da 30 punti e lode, perché è una squadra che soprattutto in casa non perdona nessuno, 7 partite, 7 vittorie, attenzione perché chiuderà Natale questo 2011 ospitando la Juventus, quindi sì. Quella sera potrebbe partita essere scudetto. Davvero, potrebbe essere davvero una partita scudetto, perché tutti sottovalutiamo l'Udinese, ma l'Udinese è una grossa mina vagante per tutto il campionato, e io credo che nella peggiore delle ipotesi arriverà terza, anche perché come detto è l'unica di quelle lì davanti che corre senza un grammo di pressione addosso, Alberto, e in questa prospettiva, soprattutto in prospettiva Milan, nella prospettiva delle difficoltà del Milan che hai evidenziato molto bene, diventa un'altra gara importante quella di ieri sera per la Juventus, perché se dici con un Milan messo così vado a Roma, faccio risultato, e beh, l'autostima continua a crescere. Sì, la Juventus è l'unica squadra imbattuta, a questo punto gioca leggera perché non dico che non abbia nulla da perdere, ma può persino permettersi di pareggiare o anche di non vincere sul campo della Roma, di perdere la prima partita, non sarebbe un dramma. È la squadra che ad alto livello ha fatto il salto più alto, perché l'Udinese è arrivata quarta, la Juventus è arrivata settima, e io non ricordo nessuno, a cominciare dal sottoscritto, che la considerasse in grado di vincere lo scudetto. Sì. Grazie Alberto. Grazie a voi, buona domenica. Buon lavoro. Grazie ad Alberto Cerruti, dunque. Claudia da Bologna, e poi ci fermiamo un attimo. Mentre voi potete continuare a prenotarvi, 800 24 00 24, numero verde. Carino questo messaggio di Roberto. Voi che siete informati, sapete dirmi quanto costa un biglietto come quello di Pato per poter assistere alla gara dal Prato? Scrive Roberto. Claudia invece cosa dice? Buonasera. Buonasera. Il commento è stato già fatto dalla persona che mi ha preceduto, per cui si parlava di Bologna-Milan, sì, e probabilmente era quello che è stato detto un minuto fa, quindi volevamo il suo parere, perché non abbiamo sentito le parole di Allegri, però un Bologna che fa un campionato diverso da quello del Milan, ma che oggi forse ha affrontato una squadra che qualcuno ha detto non ha giocato, forse Bologna ha giocato meglio del solito. Bologna e forse ha giocato, la penalità. Ha giocato una gran gara, Claudia. Bologna ha giocato una gran gara, ma su questo non si discute. Vista, quindi... e forse qualche errore di troppo a livello arbitrale, peccato, perché il Milan non ne ha bisogno, il calcio, certo, invece sì, di stare sereno, di vedere finalmente uno stadio più pieno, e va bene così. Chissà perché le signore rischiano di essere sempre le migliori in campo quando intervengono in questo programma. Nulla da aggiungere, Claudio. Il Bologna oggi ha giocato una signora partita, mettendo a nudo, secondo me, certe crepe nell'organizzazione del Milan, che sono quelle di cui stavamo parlando con Alberto Cerruti. Luigi da Catania, poi ci fermiamo. Buonasera, Luigi. Sì, buonasera, Carlo. Io sono tifoso dell'Inter e finalmente ieri ho avuto la conferma di che razza di giocatore sia Davide Faraoni. Volevo sottolineare semplicemente che da tifoso, io come credo tanti altri che assistiamo agli amichevoli da Bolzano, la Valle d'Aosta, il Trentino, eccetera, eccetera, di ciò ci eravamo accorti già ad agosto. Sì. Fin tanto che il nostro buon Branca, Ausilio e compagnia hanno deciso di acquistare tale Jonathan, che mi ricorda il vecchio Gilberto, giocatore di calcio a 5. Qualche similitudine la trovo anch'io, Luigi, dico la verità. Che a un certo punto decide però Luigi, stoppare. Posso dire una cosa? Sì. Faraoni, allora, l'ho visto dallo stadio la domenica scorsa con l'Udinese, cioè sabato sera nell'anticipo con l'Udinese, e già mi aveva fatto una buona impressione. Gli era giocato una splendida gara. È uno che ha corsa, personalità e anche un bel piede per il cross, però piano un attimo, vediamolo. Ma Faraoni era il secondo dopo Maicon, dopo Inagatovo, Zanetti, perché copre entrambe le fasce a destra, non ha problemi e gioca bene anche da centrale, credo che un giorno lo vedremo. Soltanto poteva ben stare da secondo, e qualora fosse arrivato il suo turno avrebbe iniziato a giocare magari 3-4 partite fa. No, invece occorre Jonathan. Se non si infortuna Jonathan, ovviamente Faraoni sta lì. Beh, ovviamente lo vediamo, perché Akanji non è fesso nemmeno Claudio Ranieri, e quindi non è scritto da nessuna parte che debba giocare Jonathan per presa di posizione divina. Se Faraoni è meglio, gioca Faraoni, come di fatto sta accadendo, a prescindere, credo, dall'infortunio di un giocatore molto misterioso come il brasiliano di cui lei ha parlato. Ci fermiamo, intanto voi prenotatevi 800 24 00 24, o scrivete 349 238 6666. Torniamo tra poco. Parole da uomo di calcio vero, quello di Stefano Pioli, allenatore del Bologna, il quale purtroppo ce le siamo perse. Pioli ha detto: lasciamo stare l'arbitro, parliamo di una partita bellissima, ma soprattutto ha detto: ho salutato come al solito l'arbitro Rocchi a fine partita e mi è sembrato scosso, se ho sbagliato chiedo scusa, ha detto Rocchi a Pioli. Di Carlo invece sta parlando con Sky, una battuta. Il Milan della Juve, la Lazio in questa cosa qui meritano di dove sono, tutte e cinque le squadre meritano in questo modo qui quel posto lì. Invece noi, magari in questo caso qui il Chievo, insomma, in qualche punto ci manca, ma continuando a fare queste prestazioni, giocando così con questa personalità, sicuramente verremo fuori anche noi nel modo giusto, perché prima o poi anche noi ci capiterà qualche errore degli avversari. Ilaria. Così, Di Carlo, io vi devo la lettura della classifica. Ma un arbitro può sbagliare qualche volta o no? Scrive Giampiero da Roma. Certamente qualche volta può sbagliare, però quando sbaglia con grande frequenza, come in questa sfortunata stagione di Rocchi, non si può fare a meno di notarlo, come facciamo peraltro con i calciatori, no? Quindi senza particolare malizia, mi sembra un dato oggettivo e un dato di cronaca, soprattutto se riguarda uno dei migliori arbitri italiani, o presunto tale, che ci dovrebbe rappresentare agli europei. Vi devo la lettura della classifica prima di tornare agli ascoltatori. Luciano da Bologna e Gian da Genova. Udinese 30, Juventus 29, Milan e Lazio 28, Napoli-Palermo 20, Cagliari-Genoa-Catania 18, Inter-Roma-Parma 17, Atalanta-Fiorentina-Chievo 16, Bologna 15, Siena 14, Cesena 12, Novara 10, Lecce 8, questo all'ordo delle partite che devono ancora essere giocate. Questa sera, come sapete, il posticipo del Napoli che gioca a Novara, poi c'è il recupero dell'Inter, poi in settimana, poi domani c'è l'ultima puntata di questa quindicesima con Roma-Juventus. Insomma, mancano un sacco di partite, è una classifica che vale per quello che conta, insomma, non tantissimo. Luciano, buonasera. Buonasera, grazie per avermi chiamato, dottore. Grazie a lei. Io vecchio discorso, guardi, io sono arrabbiatissimo, soprattutto dopo le partite come quella del Bologna di oggi. E per esempio Rocchi, che ne ha già parlato lei della questione dell'Inter-Napoli l'altra sera. Io sono arrabbiato solo con Platini. Io quando vedo Platini mi nervoso, che spengo la televisione. Ma perché? Perché Platini? Ma è mai possibile, dottore, che in una situazione nel 2011 dove la tecnologia è alle stelle, è possibile che ci deve essere questa resistenza per non mettere la famosa mozione sul campo? E adesso stanno parlando del gol fantasma che fortunatamente forse arriverà. Luciano, lei è molto simpatico, ma qui rischiamo di farla lunga, cioè di farla lunghissima, anche perché il mio pensiero è quello di sempre, non l'ho cambiato oggi dopo aver visto le fesserie di Rocchi ai danni del Bologna principalmente, non l'ho cambiata. Cioè, secondo me il senso e il bello del calcio sono queste discussioni che stiamo facendo, quindi preferisco questo anacronismo. La moviola in campo a me non piace, sono d'accordissimo con una tecnologia che possa evitare errori tra virgolette geometrici, cioè il pallone che entra nel 2011 deve essere riportato al centrocampo dopo il gol festeggiato, quindi su quello sono d'accordo, più che sulla moltiplicazione del numero degli arbitri con i giudici di porta eccetera, su quello sono d'accordo, sul resto io no, non sono d'accordo, perché a me piace il calcio così, con la sua imperfezione. Quindi poi io capisco tutta la rabbia del mondo, Luciano, sia chiaro. Genova, Gian, buonasera. Eccomi qua, buonasera. Io sono una voce fuori del coro. Il Barcellona è uno squadrone, bellissimi, sono bravissimi, però non è che mi diverta. Con quel tic-tac, avanti e indietro, non è che mi entusiasmi questo tipo di gioco. E la domanda che le pongo è questa: ma il Barcellona così com'è, senza Messi, sarebbe così esaltato dalla stampa di tutto il mondo, o sarebbe qualcosa di diverso? Però, bella domanda, ma Messi è il più forte giocatore del mondo e gioca nel Barcellona, è normale che faccia la differenza anche in una super squadra come questa. Piuttosto, anche qui possiamo innescare un discorso epocale, che è quello del confronto tra Messi e Maradona, che fa parlare un po' tutti. Io vorrei vedere Messi riuscire ad essere così grande, così determinante al di fuori di quella squadra da sogno. Poi il TikTok del Barcellona è meraviglioso, che provate a farlo voi. Cioè, il TikTok del Barcellona è costruito da due centrocampisti che sono Xavi e Iniesta, che sono nel loro ruolo probabilmente i migliori del mondo. Quindi il trucco sta lì, poi è Messi a trasformare l'energia prodotta dal Barcellona. È chiaro che possiamo dire Barcellona senza Messi. Messi gioca nel Barcellona ed è il più forte giocatore del mondo. Cosa sarebbe stato il Napoli degli scudetti senza Maradona? No? Cosa sarebbe il Milan senza Van Basten? Possiamo andare avanti a lungo, no? Con questi discorsi. Se volete lo facciamo. È 800 24 00 24. Chissà cosa dice Omar D'Alecco adesso. Omar? Pronto, sì. Eccomi, dica. Buonasera. Buonasera, dica. Sì, avevo una considerazione da fare. Io sono un tifoso interista. Sì. Allora, praticamente io mi dà fastidio ogni volta che dicono che l'Inter si deve ringiovanire, che l'Inter si deve ringiovanire. Cioè, allora, il giocatore, il calciatore, non lo si prende perché è giovane, il giocatore lo si prende perché è bravo, giovane o vecchio, si prende perché ha delle capacità. Cioè, il giocatore di calcio deve avere delle capacità, non deve avere l'età, cioè l'età non serve a niente. Provate a giocare, per dire, l'Inter dovrebbe provare a giocare una partita con tutti i 19 anni, cioè tutti i giocatori da 12 anni. Sì, sì, ha ragione Omar. Omar ha ragione, perché si fa molta confusione su questo punto. È chiaro che un giocatore forte e giovane è meglio di un giocatore forte attempato, e mi vergogno quasi a dire banalità di questo tipo, però è evidente, devono giocare, bisogna cercare quelli bravi, bisogna cercare quelli bravi, non è sufficiente che siano giovani. Poi all'Inter appunto stanno valutando le qualità, io credo, dei ragazzi giovani che hanno in rosa, e in nessuno di questi al momento vedo un fuoriclasse. Io vi dico la verità, né in Coutinho né in Alvarez, men che meno. Faraoni mi sembra un buon giocatore, ma da rivedere molte molte altre volte, quindi lei ha ragione l'ascoltatore quando dice va bene quelli giovani, però che siano giocatori di livello, che abbiano potenzialità, come ad esempio ha uno che dall'Inter è andato via, e cioè Mario Balotelli, e anche qui altro discorso epocale che potremmo aprire, però su un Inter da rifondare come era quella di, come questa, ma come era anche quella dell'anno scorso, prima di lasciar partire Balotelli ci avrei pensato un po' di più, no? Nonostante tutte le sue i suoi sbalzi d'umore, mi piace. Ci fermiamo per il traffico. 800240024. Forse Sedor che sta parlando di quel fallo di mano, sentiamo. No, guarda, mezzo bug. Io no, perché sono, come si va in chiusura, io praticamente ero avanti la palla aveva tanta curva. In televisione sicuramente si dà braccio, io l'ho sentito la palla sull'ombro, ho parlato subito con Di Vaio e ho detto guarda, se me l'avessi dato avrei capito, perché era proprio difficilissimo. Credo che la mia fortuna era che l'arbitro era a 10 metri sulla mia linea, diciamo un colpo di fortuna, perché la percezione nel momento era rigore chiara. Io so dove la palla ha colpito il mio corpo, però vai a spiegarlo. Dove l'ha colpita? Zeedorf, ci faccia vedere dove l'ha colpita, dove l'ha sentito qua. Lei? Qua, sulla spalla addirittura. Questo è Sedorf, Orocchi è stato straordinariamente bravo, ha preso un abbaglio, propenderei per la seconda. Abbiamo in linea un allenatore, un nostro amico come Mario Beretta, che saluto. Buonasera. Ciao. A voi. Buonasera mister, perdonami un attimo, vado da Emilio Buttero che dovrebbe essere col presidente del Bologna e sono curioso di sapere magari anche tu che cosa ha da dire. Emilio. Grazie Carlo, sono in compagnia del presidente del Bologna, Albano Guaraldi, che ringrazio intanto per la disponibilità. Presidente, fermare il Milan è comunque una bella soddisfazione, è stata una partita spettacolare con tantissime emozioni. Sicuramente sì, è stata una bella partita, io credo che Bologna oggi abbia fatto una delle più belle prestazioni del campionato. E credo di non esagerare se dico che forse oggi potevamo anche vincerla, e credo che nessuno avrebbe potuto dire nulla se non fosse stato per una serie di inconvenienti arbitrali che sono successi. Vedi il rigore di Sedorf non dato al Bologna, vedi il rigore su Raggi che forse c'era e non c'era, vedi il cartellino di Conè dopo, per protesta dopo il rigore non dato al Bologna. Comunque la soddisfazione è tanta, la squadra credo che abbia dato il massimo e siamo contenti. Con Pioli in panchina si viaggia ad una media quasi da Europa League, presidente. Direi che Pioli sta dando un'impronta a questa squadra molto importante, e lo si vede, direi che sotto gli occhi di tutti, la crescita di tutta la squadra, nessuno escluso. Questo è il presidente del Bologna al microfono di Emilio Buttaro. Mario Beretta, eccoci. Sì, ciao. Buonasera. Buonasera mister, restiamo sull'argomento Milan, un Milan che al di là di questi episodi che avrai visto anche tu, no? Immagino. Sì. Pensiero? Beh, così, rivedendo in televisione, obiettivamente il rigore di Sedorf c'era, sì. Assolutamente, nettamente, probabilmente ce n'era uno prima di Molingari su Aquilani, credo, quello di Ibrahimovic ci sta che dia rigore, però obiettivamente quello di Sedorf era, diciamo, il più eclatante in sì. Assoluto. Poi è chiaro anche che se sei in gioco dalla panchina si fa una certa fatica a dimostrare tutto il fair play del caso, no? Sì, certo, uno si arrabbia, anche perché poi soprattutto quando si è in lotta per non retrocedere, anche se chiaramente adesso ne mancano di partite, però quando sei in quella zona bassa i due punti in più e i due punti in meno fanno una differenza sostanziale. Certo, al di là di Rocky, Milan, se ne parlava prima con Alberto Cerruti, che sta dimostrando qualche crepa piuttosto evidente in un centrocampo che comunque fa fatica a reggere la difesa, non ha certamente una difesa impenetrabile, anzi la peggiore tra quelle che sono là davanti. La difesa stessa, che quando non c'è Neste capita molto spesso, è meno solida e quindi evidenzia ancora di più la scarsa interdizione al centrocampo. Insomma, qualche problema c'è, è inutile nasconderlo. Sì, anche se comunque il Milan sta facendo una rincorsa notevole, quindi sicuramente dal punto di vista mentale ha speso molto. E quindi io credo che sia molto importante che il Milan possa arrivare a gare comunque come sarà, credo sicuramente, a tiro della prima per Natale, in modo che poi durante la sosta possa ricaricarsi un po', anche perché ricordiamoci che Milan è partito veramente male, sì. Poi ha ingranato poco alla volta, e tutto sommato credo che poi una volta che recupererà anche dagli infortunati i vari Nesta e altri, sicuramente non dovendo sempre far giocare sia in Champions che in campionato gli stessi, potrà fare una rotazione migliore. Quindi vale ancora, secondo te, l'assioma secondo cui la Juventus dovrà strappare lo scudetto al Milan, che è un po' più forte? Secondo me sì, anche se chiaramente la Juventus sta dimostrando assolutamente di fare un campionato di grandissimo spessore, e ovviamente, tra virgolette, in positivo il fatto che non faccia le coppe. Certo, chiaro che la Juve ci tiene, e come, giustamente, a fare le coppe, questo è ovvio, però diciamo in questo momento ha qualcosa in più anche per questo motivo. Sta dimostrando qualcosa Conte, oppure sta semplicemente gestendo bene la rabbia juventina? Ma credo tutte e due. Secondo me l'aspetto più importante è che ha saputo derogare da quello che è sempre stato il suo sistema di gioco fino adesso, da cui diciamo non si era mai spostato, quindi facciamo un 4-4-2, e invece giustamente ha cambiato, e infatti i risultati gli danno ragione, passando a un 4-3-3, sostenendo di più Pirlo nel suo, diciamo, portandolo nel suo ruolo poi che ha sempre giocato negli ultimi anni, dove si trova sicuramente meglio con due interni che gli danno la mano, insomma. Sì, sicuro. Chiaro che l'Udinese in fondo non ci arriva da prima in classifica, però se imparasse a vincere le partite che giocherà male fatalmente, perché questo capiterà, ma io ho visto anche oggi parecchio di Udinese e Chievo, sì? Ed è che non è stata sicuramente una partita facile, un po' perché Chievo comunque da affrontare non è mai facile, in più oggi ha chiuso veramente tutti gli spazi, sappiamo che l'Udinese poi tendenzialmente è una squadra che gioca a catturare palle e a ripartire con giocatori di grandissima velocità davanti, quindi diciamo quando non trova spazi fa più fatica, però dopo alla fine è riuscita lo stesso a venire fuori, sbagliando tra l'altro anche due o tre gol incredibili e riuscendo a fare un risultato importantissimo, quindi questo vuol dire grande maturità, e non è che la scapperei a priori, assolutamente. Sì, perché comunque ha dei giocatori al di là di tutto comunque di grandissima qualità, non c'è dubbio. Senti, io ti faccio un'ultima domanda difficile, sì. Posso? Ci conosciamo da tempo. Prego, invidi prego. Un po' Luis Enrique, che fosse stato un altro magari l'avrebbero già mandato via. Ma lo invidio perché mi allena la Roma. E che sei chiamata così? Per tutti credo che comunque andare a allenare la Roma sarebbe veramente una grandissima soddisfazione, quindi ecco, lo invidio per questo. Anche perché con quei risultati, allenando la Roma, che è una squadra di qualità, magari in altro, che si chiamava in un'altra maniera, uno spagnoleggiante sarebbe stato sollevato. Ma no, non so se è per un discorso di nome che porti, del fatto che sei straniero, o quanto perché comunque ci sono dei dirigenti che credono in te. Sì, che ci credono e che legittimano l'allenatore il più possibile. E quindi questo credo che sia un aspetto da sottolineare in positivo per un calcio che da noi perde due partite non è troppo, insomma. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie davvero Mario Beretta. C'è chi scrive diversi messaggi anche interessanti, come ad esempio Andrés Iniesta ha spiegato calcio per 90 minuti ieri sera ad una squadra costruita per dominare il mondo, spendendo e espandendo in lungo e in largo, merita il pallone d'oro, scrive Giacomo, magari lo alzerà anche, caro Giacomo. Oppure Offense Wins Games, Defense Wins Championship. L'attacco vince le partite, la difesa vince i campionati. Saggezza del football americano, scrive un altro ascoltatore, Riccardo della provincia di Bergamo. Cosa dice? Sì, buonasera. Concordo con lei sul fatto che Iniesta debba vincere, con il radioascoltatore, che Iniesta debba vincere il pallone d'oro, in quanto la forza del Barcellona è nella cantera, nel suo vivaio. Sì. È l'intero infatti, modello, Riccardo, è l'intero modello. Sì, sì, infatti, cioè, volevo anche rispondere a un radioascoltatore che mi è intervenuto prima sul fatto dell'Inter. Cioè, dobbiamo soprattutto arricchire il nostro calcio, quindi calciatori dei nostri vivai. Perché comunque le faccio un esempio lampante: il calciatore acquistato dall'Inter, Alvarez, faceva la riserva a Morales, che è il calciatore dell'Atalanta. Sì. Tutti e due non si stanno ambientando nel campionato italiano. Perché non Ma dipende anche, Riccardo, dipende anche dal pianeta su cui ti trovi, no? Su cui vieni catapultato. In una squadra che funziona come l'Udinese, vedi che riesce ad inserire giocatori pescati in giro per il mondo e magari a trasformare dei campioni in campioni, come è stato il caso di Sanchez. Da altre parti, soprattutto in una squadra che non funziona come l'Inter di questi tempi, è molto difficile l'operazione, quindi servirà tempo e servirà pazienza e competenza, secondo me. Tempo di sport. Nel frattempo si è scatenata anche, mentre c'è Filippo Aureggi in regia, lo saluto, Giorgio Luca sempre in redazione per questa seconda ora di A Tempo di Sport con voi, 800 24 00 24 per le vostre voci. No, dicevo, c'è una disputa su detti americani. Prima citavo quello di un ascoltatore: offense wins games, defense wins championship, cioè l'attacco vince le partite, la difesa vince i campionati. C'è chi corregge con un detto molto, molto noto, secondo cui l'attacco fa vendere i biglietti ma la difesa fa vincere le partite. Comunque il concetto è molto chiaro ed è condivisibile sotto entrambi i versanti, su entrambi i versanti, miei cari. Claudio da Pisa, buonasera. Buonasera. Non credo che voglia filosofeggiare su detti americani, credo che voglia parlare d'altro, magari di più interessante. Dica. Niente, ho un punto di vista per quanto riguarda il Barcellona di quest'anno, sì, che rispetto all'anno scorso ha fatto meno gol, come Real Madrid quest'anno in Champions League non ha perso nemmeno una partita. Le ha vinte tutte. Sì, appunto, le ha vinte tutte. E come dico io, il giocattolo del Barcellona si sta rompendo, chissà. Insomma, si sta rompendo, io non lo so. Lo so, detto che ha vinto ieri sera 3-1 al Bernabeu, se si sta rompendo magari molto lentamente, no? Ma al di là di questo, qualche segnalino, non di rottura ma di qualche problemino c'è, esiste questo continuo cambio e rimescolamento dei moduli, ma bisogna cercarli col lanternino, Claudio, bisogna cercare col lanternino le crepe in una macchina perfetta come quella del Barcellona, quindi le differenze si vedono anche in certe squadre. Sì. Quando giocò col Milan, per esempio, giocò una grande partita. Sì. Che giocò con Getafe, perse. Sì. No, ma infatti queste sono le piccole crepe, no? In una macchina inarrestabile come quella del Barcellona, sono proprio queste le piccole crepe, qualche punto lasciato per strada. Non a caso ieri sera si trovava per la prima volta ad inseguire, quindi erano posizioni ribaltate rispetto alle 6 puntate precedenti di questa sfida infinita che ha animato un intero 2011 e si riproporrà svariate volte, vedrete, nel 2012. Quindi si era ribaltato un po' l'inerzia, no, di questo testa a testa, e il Barcellona ha rimesso le cose a posto con il 3-1 di ieri, quindi qualche smagliatura magari c'è, però ripeto, bisogna cercare col lanternino. Claudio, grazie. Roberto, provincia di Alessandria, buonasera. Buonasera signor Genta. Le volevo parlare dell'arbitro Rocchi. Se Sì, tanto per cambiare. Però. Se tre indizi fanno una prova, sì. Nel senso che l'anno di Mourinho del triplete nel derby, cacciò Schneider, diede un rigore al Milan, lasciò l'Inter in nove uomini, per non parlare quest'anno col Napoli cosa ha combinato in Inter-Napoli, per finire a oggi, quindi Rocchi è milanista. Milanista lo trovo semplicemente scandaloso, sì. Inadeguato, sì. E scarso, molto scarso. E di sicuro non quindi, è interista. Quindi lei dice a buoni santi in paradiso? Penso proprio di sì. E se non sbaglio deve essere anche internazionale. No, non solo internazionale. L'arbitro che ci rappresenterà gli europei ha diretto, ma sentiva prima. Auguri. Non so se l'ha sentito prima Alberto Cerruti, non so se era collegato prima. No, non l'ho sentito. Diceva che in Chelsea-Valencia, che era una delle partite più calde e più delicate della Champions League della settimana, aveva arbitrato in maniera fantastica. Rocchi, oggi è tornato fratello scarso, io non voglio pensare a queste cose, cioè non voglio pensare sia coinvolto in baruffe di partito, poi è chiaro che vai a leggere gli episodi e dici favorisce il Milan, danneggia l'Inter e dunque Rocchi è milanista, non credo, credo che queste siano suggestioni così da prendere sul ridere, di certo sta disputando una pessima stagione, cosa che potremmo dire anche di qualunque giocatore, no? Rocchi sta disputando una pessima stagione in una stagione importante che si concluderà appunto con gli europei, dunque questi sono i dati di fatto, altro non avrei da aggiungere, l'arbitraggio di oggi è stato da tre in pagella perché ha finito per scontentare tutti, sia il Milan che il Bologna. E dunque tant'è, mi limiterei alla cronaca più che a queste ardite somme, no? 800 24 00 24, e non ha torto nemmeno chi scrive, rimanendo, parafrasando i detti di qui sopra, che è il centrocampo che fa vincere le Champions League, vedi Xabi e Iniesta, e questo è assolutamente corretto, ma è il centrocampo anche che fa vincere gli scudetti, ed è per questo che dico che il Milan rimane la squadra più forte. Come organico, come quantità di talento, però vedo dei segnali che non possono non far coraggio alla Juventus, li ho visti disseminati qua e là in questa stagione in cui il Milan era partito molto male, li sto ritrovando, ad esempio oggi ne abbiamo ritrovati diversi perché il Milan di Bologna non è certamente stato un Milan convincente, cioè da risolvere il problema Pato, con cui siamo sempre tutti molto esigenti, questo ragazzo continua a fare dentro e fuori dall'infermeria, resta per me un fuoriclasse almeno potenziale assoluto, resta potenzialmente, la dico grossa, il più forte giocatore del Milan, mettiamoci pure Ibrahimovic e Thiago Silva, però è chiaro che giocando con questa intermittenza è difficile anche trovare continuità, non mi aspettavo molto di più del nulla che si è visto oggi da Pato in campo. Ivan da Modena, buonasera. Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ascolti, premesso un augurio che tante altre dirigenze come quelle della Roma riescano a portare pazienza anche in altre società, perché sarebbe un cambio di cultura per il nostro calcio. Volevo fare una considerazione e un suo commento sul Barcellona in questo senso. A me è sembrato di vedere ieri sera, ma anche in altre partite, che stia proprio cercando di cambiare, andando oltre la sua perfezione, e nel senso che ho visto cambi di ruolo incredibili, cioè Fabregas ha giocato in cinque ruoli diversi, Sanchez cambiava posizione, cioè secondo me stanno cercando di andare oltre. Sì, ma stanno cercando di andare oltre, di sperimentare, no? È un Barcellona che cambia continuamente anche il modulo, se avrà notato in questa stagione, continuamente anche pericolosamente, se me lo consente. Quanto al discorso della Roma, la Roma c'ha questo esperimento molto interessante, se vogliamo anche un po' bizzarro, cioè quello di costruire il Barcellona partendo dal tetto, di costruire una casa simile a quella del Barcellona o più piccola naturalmente, ma con la stessa filosofia partendo dal tetto, mentre il Barcellona parte da altre radici e da altre basi, e il vero segreto di Pulcinella è questo, cioè è l'organizzazione Barcellona che produce quel tipo di gioco e quel tipo di spettacolo. Dunque, adesso abbiamo il traffico, poi torniamo. Vorrei anche parlare un po' di Napoli. Napoli che giocherà stasera, ma che soprattutto è stata la grande festa della settimana. Vi do una notizia di cronaca con un SMS, quindi ringrazio Dante da Busto Arsizio che scrive al 349-238-6666. Magnini Argento sui 200 stile libero, ha un soffio da Biderman. Per ora il gossip fa bene a Magno, l'altro Marin è desaparecido. Questo scrive Dante. Voglio sentire una voce napoletana di una donna bellissima, Caterina Balivo, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera a te, buonasera a tutti. Voglio chiederti come hai festeggiato il passaggio del turno in Champions. Ma guarda, il mio festeggiamento era un po' ridotto perché ero fuori per la prima La Scala e tra un altro e un altro guardavo il telefonino per quanto riguardava i vari punteggi, sì. Gol e roba varia, con un mio amico che è stato praticamente pagato da me per informarmi su tutto. Però è stato veramente bellissimo quando sono stata a tavola con i miei amici dopo scalzo, bene, un brindisi al Napoli, siamo tutti milanisti, capisci? Mi hanno guardato abbastanza schifati, ecco. Capisci a me, tra l'altro il Napoli, insomma, dicevo ieri, è la portabandiera delle squadre italiane in Champions League, perché non solo era un girone impossibile, ma anche quella che ha fatto più punti, dunque orgoglio triplo, eh. Sì, questo è vero, per questo magari in campionato dobbiamo un po' più correre rispetto alle altre, perché però siamo ormai passati alla storia, non eravamo in Champions da 23 anni, quindi va bene qualche punto in meno in campionato, ma una bella figura in Europa. Senti Caterina, invece di questa storia delle compagne scippate dei giocatori, tu come la valuti? Ma guarda, anche a me hanno rubato una bicicletta, mia sì. sorella le hanno rubato la macchina e la borsa a Napoli. Quindi non c'è un disegno oscuro secondo te? Io mi auguro e spero proprio di no. Ti dico che l'altro giorno ero a Milano da Cova, un bar rinomato al centro di Milano. Il tempo di sedermi con la mia amica Sara, abbiamo lasciato la borsa a terra, ma un minuto, neanche il tempo di ordinare, la borsa era sparita. Quindi stavamo a Milano in uno dei bar più belli di Milano. Sì, quindi sì. Secondo me sono tante coincidenze. Spero che non penso che ci sia un disegno, dai, sì. No, non ci voglio credere. Non ci voglio credere che ci possano scippare il Pocio Lavezzi. No, guarda, quello può essere, perché sono insomma nel senso calcistico. Però, esatto. Che lo portino via da Napoli. Capito, io spero proprio di no, perché insomma, questa squadra è bella, forte, unita così com'è. Sì, ho visto che anche Pandev si sta dando da fare, speriamo insomma anche stasera, perché dovrebbe partire come titolare, no? Sì, partirà titolare, certo. Esatto, e quindi insomma, speriamo che possa essere una bella partita. Senti, ma cos'ha secondo te Marechiaro Hanžek? Perché sta giocando in questo Napoli meraviglioso alla fine una stagione sottotono. Io ti dico che in tutti i lavori del mondo non è che si può sempre stare a mille. E quindi io guarda, quando dico no, ma cosa pensi? Anche a un certo punto, per una o due partite c'era Cavani che non segnava. Cioè, secondo me non bisogna mettere ansia. Anche perché Hamsik ha fatto delle cose meravigliose lo scorso anno. Quindi se adesso un po' così, un po' meno rispetto agli altri, non fa niente, lo facciamo recuperare questo ragazzo. Cioè, non. Anzi la prestazione, vi prego, no, almeno noi tifosi non dobbiamo farlo. Hanžek, niente ansia, l'ansia è una cattiva compagnia, questo vale per tutto, vale anche per il teatro, per lo spettacolo, per tutto, vale anche per me, l'ansia è la peggiore delle compagnie che stia alla larga da noi. Posso chiederti un'ultima cosa, ma adesso vorresti, dopo questa spremuta di emozioni di un girone che sembrava impossibile, ti piacerebbe di più un avversario un po' morbidino oppure vorresti un'altra cosa forte? Io vorrei sempre il pubblico di Napoli in giro per l'Europa, tifoso, come tredicesimo uomo in campo. Bravissimo. Questo vorrei, perché secondo me rispetto alle altre squadre abbiamo questo, abbiamo il pubblico, gli altri non ce l'hanno. Grazie Caterina. Grazie a voi, ciao Abbraccione. Forza Napoli, grazie, ciao, vi ciuccio. Grazie come sempre. E allora sentiamo che cosa ci ha preparato Giorgio Di Luca, giusto per chiudere questo sipario napoletano, poi lo riapriamo su altri temi, anche sul Napoli se volete, con gli ascoltatori, 800 24 00 24, via! Gruppo A, il Napoli con il Bayern, il Villarreal e il Manchester City. No, non è stato un buon sorteggio. Attenzione, 3 contro 3. 2, lo porterebbe il Napoli. Maggio, c'è Cavani libero. Maggio, Cavani, Cavani, rete, rete, rete, rete, Cavani, sono impazziti 3.000 del Napoli. Controlli Arizzi, poi con il sinistro morbido a cercare Hamsik, Hamsik, rete, rete, Hamsik, esploso il San Paolo. Scattato Maggio, è la palla di Hiller, c'è spazio per Maggio, in area di rigore, Maggio, il colosso di deviazione, rete, rete, rete! Prova la pancia di Aronica, che tiene il pallone, che prova a ripartire, che mette in movimento Cavani, attenzione a Lavezzi che prova a partire, Cavani in possesso di palla, degli occhi su di lui, palla verso Lavezzi, attenzione alla sovrapposizione, il cross dentro Cavani! In una storia di un Napoli nuovo che ha voglia di far bene, una squadra che quando è arrivato il sorteggio magari qualcuno pensava massimo a qualche punto così, invece siamo riusciti a passare un turno penso il più difficile di tutta la Champions. Che un Valeri, un fallo di mano di Seedorf e un arbitro Rocchi, come diceva l'ascoltatore di prima, magari filo milanista, no? Ma sono cose da ridere queste, sono ovviamente battute. Tra tutto questo ci tenevo a celebrare il grande risultato settimanale, cioè quello del Napoli. Claudio da Bologna, buonasera. Buonasera a lei, signor Genta, e complimenti per la trasmissione. Grazie. Le volevo fare una domanda, se possibile anche due. La prima, premetto,